GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il Presidente della Repubblica Mattarella in Ghana all'inaugurazione dell'Accademia per l'insegnamento della lingua italiana sostenuta da Confindustria Alto Adriatico. L'Accademia si trova all'interno della scuola di formazione professionale Don Bosco, operativa da 30 anni nel paese africano. Le tecnologie per ridurre le emissioni di CO2 e la forte concorrenza degli autotrasportatori dell'Est Europa al centro dell'Assemblea degli autotrasportatori di Confartigianato in corso a Villa Manin. 10 anni dopo la denuncia per maltrattamenti in famiglia, un uomo che aveva sottoposto la compagna a violenze fisiche e psichiche finisce in carcere. Da lunedì si possono presentare le rendicontazioni delle spese sostenute per ripristinare i danni subiti dal maltempo al patrimonio edilizio. La modulistica sul sito della Regione, che ha concesso finora ristori per oltre 10.000 abitazioni. 100 studenti per Pordenonesi alle prese con una gara sul diritto internazionale umanitario. L'evento nel Parco di San Valentino è promosso dai volontari della Croce Rossa Italiana. Luigi Garzoni da Adorniano, noto anche come il cantore del Friuli, ha da oggi un suo museo a Cassacco. Torna oggi e domani Castelli Aperti, 23 dimore storiche aperte al pubblico con visite guidate, mostre ed eventi dal vivo. 4 le novità di quest'anno. Per gli organizzatori lo spirito dell'iniziativa e la condivisione. Buongiorno da Dario Ronzoni e Nada Cioc. Apriamo questo giornale radio parlando della visita del capo dello Stato nel Ghana. Il presidente Mattarella si trova ad Accra, sta visitando in questi minuti il centro di formazione Don Bosco, un istituto tecnico professionale dove ogni anno studiano circa 800 ragazzi tra i 14 e i 18 anni. Il capo di Stato inaugurerà a breve, a momenti, assieme ai dirigenti di Confindustria Alto Adriatico, la nuova sezione di questa scuola che curerà la formazione linguistica di 30 giovani che saranno scelti per un percorso di scambio professionale in realtà aziendali del Friuli Venezia Giulia. I percorsi formativi professionali nel centro fondato dai salesiani 30 anni fa riguardano la cantieristica, l'edilizia, le infrastrutture, la logistica e la saldatura, competenze di cui l'industria italiana, in particolare il Friuli Venezia Giulia, hanno bisogno. Il presidente nazionale di Confartigianato Trasporti, Amedeo Genedani, all'Assemblea regionale di Confartigianato Trasporti in corso a Villa Manin, dove tra i temi centrali ci sono gli obblighi di ridurre le emissioni di CO2, ma anche la concorrenza dell'Est Europa. Da una parte l'obbligo di ridurre le emissioni di inquinanti e CO2, dall'altra la necessità di far quadrare i conti in un contesto di forte competizione dall'Europa orientale. È questo il quadro del settore dell'autotrasporto che si è riunito nell'Assemblea regionale di categoria di Confartigianato Friuli Venezia Giulia a Villa Manin. Il parco auto si è in parte rinnovato negli ultimi 2 anni, ma rimane più vecchio della media europea anche per la presenza di molte piccole imprese. 9 su 10 hanno meno di 6 mezzi nella propria flotta, anche se i cosiddetti padroncini stanno via via diminuendo. Le 2.400 ditte artigianali dell'autotrasporto che si contavano in regione a inizio secolo sono diventate meno di 800, un'emorragia che non accenna a fermarsi. In questo ambito che la categoria chiede sostegni economici per affrontare al meglio la transizione energetica. L'Unione Europea chiede di abbattere il 90% le emissioni entro il 2040, ma a differenza delle auto private, l'elettrificazione non potrà probabilmente sostituire del tutto il carburante tradizionale. Per tale ragione i produttori stanno prendendo in considerazione anche biodiesel, biometano e idrogeno. Gli autotrasportatori regionali chiedono intanto più controlli nei confronti di quelle aziende straniere che, a loro dire, non sempre rispettano le regole e rappresentano così una concorrenza sleale. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Vivai Cooperativi Rauscedo compie oggi 90 anni, un traguardo importante per una delle realtà di riferimento del vivaismo viticolo mondiale, che commercializza circa 80 milioni di barbatelle all'anno in tutto il mondo, dando lavoro a 185 persone e con un fatturato che ha superato i 105 milioni di euro, di cui oltre 70 in Italia nel 2023. Per festeggiare è in programma un evento per ripercorrere la storia degli ultimi decenni e indicare le direzioni del futuro alle 17:30 nella sede a Rauscedo. Ristori in maltempo. Da lunedì 8 aprile si potrà presentare tramite apposita modulistica sul sito della Regione la rendicontazione delle spese ammissibili relative ai ristori per i danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo causati dagli eventi meteo dal 13 luglio al 6 agosto 2023, qualora i lavori di ripristino siano già stati effettuati. L'amministrazione regionale potrà quindi procedere in maniera celere all'istruttoria e successivamente alla liquidazione dei contributi stabiliti. La rendicontazione dovrà essere presentata comunque entro 2 anni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione nel quale è inserita la domanda di ristoro. Le istanze complessivamente pervenute per danni a fabbricati sono state oltre 16.000. Le concessioni di ristoro riguardano ad oggi 10.770 beneficiari per 74,5 milioni di euro. La popolazione in età lavorativa in Friuli Venezia Giulia è in calo e continuerà a diminuire anche nei prossimi anni. Tra il 2021 e il 2030 scenderà di oltre 35.000 unità, cioè meno 4,8%. Lo dicono le stime della CGA di Mestre, basate sulle previsioni demografiche dell'Istat e dell'Eurostat. Si passerà dalle 741.500 unità del 2021 alle 706.000 del 2030. A questo problema, continua la ricerca, le imprese dovranno aggiungere gli effetti del cambiamento climatico, quelli della transizione energetica e dell'intelligenza artificiale, una tendenza che non si può contrastare in tempi brevi, spiega nemmeno facendo ricorso a lavoratori stranieri. Il dato del Friuli Venezia Giulia è comunque migliore rispetto alla media nazionale, che arriva a quota meno 5,4%, e nel contesto del Nord Italia la nostra regione si trova in una posizione intermedia. Peggio di noi fanno Valle d'Aosta con meno 6,6%, Liguria meno 6,5%, Piemonte meno 5,5% e di poco anche il Veneto meno 4,9%. Se invece si guarda al sud, le differenze diventano più consistenti, con la Basilicata che perderà il 12,4% della popolazione attiva, la Sardegna l'11,6% e il Molise l'11,5%. Dopo 10 anni dalla denuncia, un uomo violento che aveva più volte picchiato e sottoposto la compagna a gravi episodi di violenze psichiche e fisiche è finito in carcere. Nel 2014 in provincia di Gorizia una donna friulana che per 3 anni aveva subito le violenze del compagno, che le ha anche rotto un timpano, ha presentato denuncia alla polizia per lesioni personali e maltrattamenti in famiglia, fatti che oggi rientrano nel codice rosso. La sentenza definitiva nel dicembre del 2021 aveva condannato l'uomo, che attualmente risiede nell'Appennino emiliano, a 3 anni e 2 mesi di pena detentiva. I suoi legali avevano fatto istanza per una pena alternativa, che il Tribunale di Sorveglianza di Trieste ha però rigettato, e quindi oggi si sono presentati i carabinieri alla porta dell'uomo per l'esecuzione dell'ordine di carcerazione. Una persona è caduta questa mattina intorno alle 10 da una piattaforma aerea mentre era impegnata in lavori di potatura. È caduto a Gorizia, in via Giustiniani. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono accorsi i sanitari e le forze dell'ordine. La persona è stata soccorsa ed è ritrasportata in ospedale. 12:38, vediamo il tempo. Il cielo è da sereno a poco nuvoloso su tutta la regione. Le temperature registrate poco fa: Trieste, Pordenone 16 gradi, Gorizia 19 gradi e 5 decimi, Udine 17, Tolmezzo 16 gradi e 5 decimi, Forni di Sopra 14 gradi e mezzo, Tarvisio 16, Sappada 13, Piancavallo 10, Sull'Ussari 9 gradi e 5 decimi, sullo Zoncolan 10 gradi e 5 decimi, agli Lignano 18 gradi, a Grado 16. E queste invece le previsioni. Nelle prossime ore avremo cielo in prevalenza poco nuvoloso con foschia e locali nebbie, nelle ore notturne in pianura, sulle prealpi cielo variabile. Temperature massime in aumento, specie in quota nel fondovalle tarvisiano, venti a regime di brezza. Per domani cielo sereno o poco nuvoloso sull'alta pianura e a ridosso delle prealpi sarà possibile cielo variabile con foschia. Temperature massime in ulteriore aumento, specie in quota nel fondovalle tarvisiano, dove i valori saranno molto al di sopra della media del periodo, venti anche qui a regime di brezza. 100 giovani studenti pordenonesi stanno partecipando al Parco San Valentino alla gara di diritto internazionale umanitario promosso dai volontari della Croce Rossa Italiana. rendere i giovani consapevoli delle realtà di conflitto armato e delle azioni umanitarie, offrendo loro strumenti per comprendere e interpretare gli eventi. È l'obiettivo della gara di diritto internazionale umanitario organizzata oggi al Parco San Valentino dalla Croce Rossa Italiana, Comitato di Pordenone. 4 le scuole aderenti, Leopardi Maiorana e Mattiussi di Pordenone, il Tagliamento di Spilimbergo e Pujati di Sacile, per oltre 100 studenti e studentesse. La gara prevede la simulazione di un colloquio con un prigioniero di guerra, la valutazione in un posto di comando di quali obiettivi possono essere considerati militari, civili o sotto protezione, infine un percorso ad ostacoli con test. I partecipanti sono arrivati preparati grazie a 10 ore di lezioni con gli istruttori della Croce Rossa di Pordenone su tematiche come lo status dei prigionieri di guerra, dei rifugiati, la protezione dei civili, principi di giustizia e tribunali penali internazionali. La classe vincitrice della giornata rappresenterà il Friuli Venezia Giulia alle gare nazionali a Roma il prossimo 11 e 12 maggio. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Cassacco è stato inaugurato il museo dedicato a Luigi Garzoni da Adorgnano, cantore del Friuli. Compositore, insegnante, filologo e critico musicale, poeta, creatore, iniziatore e divulgatore di numerosi gruppi corali nel territorio friulano, è Luigi Garzoni da Adorgnano, il cantore del Friuli, che da oggi ha finalmente il suo museo. Inaugurato a Cassacco, il museo a lui dedicato negli spazi del centro civico comunale, un edificio storico già dedicato al maestro e attualmente sede di diversi spazi ricreativi e culturali come l'auditorium, la biblioteca comunale e adesso la prima esposizione permanente dedicata al maestro. Daniele Garzone di Adorgnano, nipote. Mio nonno era una persona poliedrica, non dovrei dirlo io, ma lo dico con orgoglio. È stato un musicista, un poeta, un etnofonista, un organizzatore, una persona che ha saputo raccogliere attorno a sé, grazie alla sua passione, tutto ciò che poteva avere a che fare con la storia del Friuli, con la vita del Friuli e in particolare con la musica. Infatti la sua produzione musicale è stata enorme. Il sindaco di Cassacco, Ornella Baiutti. Vogliamo lanciare un percorso culturale, già che oltre a Garzoni abbiamo anche altri illustri personaggi che sono nati e vissuti in questo paese, che sia rivolto alle scuole, naturalmente a tutte le comunità vicine e all'intera regione. Il percorso espositivo permanente prevede oltre 80 opere tra manoscritti, manifesti, cartoline, dediche, pubblicazioni, autografi e altri documenti di grande valore. Alessio Screm, musicologo e curatore dell'esposizione. Abbiamo così pensato un percorso che permetta sia agli appassionati di musica, ma anche a coloro i quali appartengono alla cultura generalista del Friuli, di conoscere anche aspetti che riguardano il dettaglio della sua vita e della sua opera. Ad esempio in questa zona abbiamo riprodotto quello che era il suo studiolo, mentre sulle teche sono esposte una serie di fotografie, di documenti, di carteggi, di testimonianze, anche a firma di autori noti, non solo in ambito regionale, ma anche nazionale e internazionale. Cassacco, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Tutto il materiale cinematografico del regista Marcello De Stefano, scomparso a Udine lo scorso ottobre all'età di 94 anni, sarà conservato alla Cineteca del Friuli per volontà della figlia Laura. Oltre 20 scatole, 12 di pellicole e una decina contenenti materiali extrafilmici sono ora all'archivio cinema della Cineteca, dove dopo l'inventariazione si procederà alla catalogazione e alla digitalizzazione al fine di rendere i materiali disponibili alla visione e alla consultazione. Autore di numerosi film saggio, molti dei quali dedicati al Friuli, De Stefano è stato un innovatore del cinema friulano. Della sua vasta filmografia si ricordano Incontro con un'infanzia rifiutata del 71 sul problema dell'emarginazione dei bambini diversamente abili, il primo mediometraggio realizzato in regione e presentato alla Mostra di Venezia nel 1972, e poi Contro le lettura, parte prima, uno dei film di maggiore successo, nonché vigorosa affermazione di friulanità, cui sono seguite la seconda parte, presentata nel 1982, e la terza del 1996, una rivendicazione a favore della lingua friulana e dei dialetti. Oggi e domani torna in tutta la regione Castelli Aperti, manifestazione in cui i proprietari di forti castelli e dimore del territorio aprono le porte al pubblico, spesso facendo loro stessi visite guidate e raccontando quello che custodiscono. Abbiamo sentito Alessandra Dattimis Maniago, vicepresidente del Consorzio per la salvaguardia dei castelli storici in regione, chiedendole quali sono le novità di questa edizione. I castelli, i palazzi, le case forti che apriranno sono 23 queste edizioni, con 4 novità: Santa Margherita del Gruagno, il castello di Gemona, il castello di Colloredo di Montalbano ma ala ovest e la casa forte di Bergum. Che cos'è? Qui è un'interessantissima fortificazione, è una novità perché i proprietari l'hanno terminata di restaurare da poco e hanno deciso di farla conoscere. Si trova a Remanzacco, in un bello spazio verde che si apre con questa costruzione, tutta recintata da un muro, una torre e diverse case. E cosa significa aprire i castelli e mostrare alle persone che non li conoscono queste bellezze? Significa condividere una storia che poi è la storia del Friuli, perché le famiglie che hanno abitato questi castelli nel corso degli anni, dei secoli, hanno fatto la storia del Friuli. Significa condividere arte, architettura, no? Perché pensiamo che molte sono le cose di pregio contenute in questi castelli, quindi soffitti decorati, cancelli in ferro settecenteschi o ancora più antichi, grandi scaloni in pietra. È un partecipare di qualcosa che in fin dei conti appartiene a tutti noi. Nel campus del Cro di Aviano è stato presentato il progetto della Federazione Italiana di Atletica Leggera per il Nordic Walking, con 7 percorsi in tutta la regione. Sono 7 i percorsi di Nordic Walking usufruibili da oggi nella nostra regione grazie ad un progetto realizzato dalla FIDAL del Friuli Venezia Giulia, che ha previsto circuiti adatti a questa disciplina emergente a Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone, Aviano, Gemona e San Vito al Tagliamento, quest'ultimo attrezzato anche per i non vedenti. Un'attività fisica svolta con l'ausilio degli appositi bastoncini con l'obiettivo di far lavorare in modo armonico i muscoli del corpo. La peculiarità dell'iniziativa è quella di far conoscere e valorizzare i percorsi all'interno della nostra regione, capaci di cogliere gli aspetti di carattere naturalistico, turistico, culturale e storico. Lucio Poletto, coordinatore del progetto. Noi abbiamo creato addirittura tutti gli indirizzi della cartellonistica in funzione del turismo e del paesaggio. Anche perché è giusto che la regione Friuli Venezia Giulia, considerata al centro di quella che è la Mitteleuropa, avesse questo tipo di caratteristica il progetto, e quindi anche la doppia scritta italiano-inglese nella presentazione della bacheca iniziale dei percorsi trova questa configurazione. Il Nordic Walking è un'attività sportiva riconosciuta dal CONI e inquadrata come disciplina dell'atletica leggera. Il presidente regionale della FIDAL, Massimo Di Giorgio. È una disciplina che nasce come allenamento a secco dello sci da fondo come base, no? Ed è si è sviluppata per prima nei paesi nordici, perché chiaramente prevede l'uso del bastoncino. Dopodiché si è affinata la postura e quindi il modo in cui deve essere approcciato a livello biomeccanico il gesto, e chiaramente questo ha permesso di portarla, oltre che a un allenamento di preparazione per gli sport invernali, anche a un allenamento per altre attività sportive. Aviano, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. Presentata la seconda edizione del Festival dello Sport Inclusivo che si terrà a Pallacalvola sabato prossimo. 5 le discipline proposte: danza sportiva, karate, para-rowing, tennis tavolo, baskin e calcin. L'inclusione vede nello sport uno strumento fondamentale, e questo è il messaggio arrivato dall'incontro che ha aperto la seconda edizione di Sportin, il Festival dello Sport Inclusivo di Trieste, organizzato da Lions, Panathlon Trieste e Fondazione Monticolo e Foti. Una tavola rotonda introduttiva che precede di una settimana l'appuntamento del Pallacalvola, con le dimostrazioni pratiche delle associazioni del territorio che si occupano di sport inclusivo. Tiziana Pacifico, presidente dei Club Lions Trieste. Abbiamo voluto fare la conferenza quest'anno rispetto alla prima edizione per trasmettere i valori di come raggiungere e superare gli ostacoli, di arrivare alla meta. Sono 5 le discipline sportive che si esibiranno nell'evento di sabato 13: danza sportiva, karate, pararowing, tennis tavolo, baskin e calcio. Ugo Lupattelli, Centro Studi Lions Trieste. Cerchiamo di dare una panoramica di tutte le discipline sportive. Ricordo che quelle paralimpiche sono 28, lo sport è l'ambito dove la collaborazione tra le persone e la valorizzazione personale può essere sviluppata molto bene. A dimostrarlo ci sono le esperienze di atleti come il lanciatore Emanuele Panger, la nuotatrice Giorgia Marchi e il campione paralimpico di tennis tavolo Matteo Parenzan, che hanno partecipato all'incontro con la loro testimonianza. Emanuele Panger: per me fare sport è tanto importante da voler fare di ciò il mio futuro, tanto che ho deciso di farlo, diciamo, tutti i giorni, quindi come i professionisti veri. Giorgia Marchi: sono qua felice di raccontare la mia esperienza vissuta e quella che vivo adesso, così magari do qualche importanza anche al nuoto. Matteo Parenzan: per noi è davvero bellissimo vedere un grande interesse da parte delle organizzazioni, delle associazioni, di prendere noi come esempio e di valorizzare lo sport paralimpico. Trieste, Daniele Lettig, TGR Friuli Venezia Giulia. Basket in A2 nell'anticipo dell'ottava giornata della fase orologio. La pallacanestro Trieste vola in Sicilia per la sfida contro Trapani. Palla A2 alle 20:30 alla Gesteco. Invece a Milano affronterà l'Uragna. Le due squadre hanno gli stessi punti, ma i milanesi sono già sicuri dei playoff, mentre Cividale deve ancora conquistarlo. Inizio alle 20:30. E basket femminile A2 Futurosa gioca in casa alle 19 contro Ponzano. Obiettivo: conquistare due punti per mantenere saldo il quarto posto in classifica. Del Serudine in trasferta a Bolzano studia invece la preparazione per i playoff. Questa di Bolzano è la prima di tre gare in cui non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia. Sono partite da sfruttare per perfezionarci, dice coach Riga. Pallanuoto femminile: le ragazze della Pallanuoto Trieste, vincendo con un netto 14-9 la Briz Nuoto, hanno superato i quarti di finale della Final Six di Coppa Italia femminile in corso a Ostia e oggi tornano in piscina per la semifinale con il plebiscito Padova alle 16:45. La partita si potrà seguire anche in diretta TV su Rai Sport. In palio la finale per la Coppa Italia domani alle 15:45. Ginnastica: dopo il bronzo di Chieti e Forlì e l'argento di Ancona, la formazione della ginnastica ritmica dell'ASU è pronta a scendere in pedana per la Final Six che si disputerà ad Asti di Torino oggi e domani, quando sarà assegnato lo scudetto di Serie A. La squadra è parzialmente rinnovata, formata da ginnaste che hanno già rappresentato l'Italia in campo internazionale: Attara Dragas e Isabelle Tavano, già reduci del primo assoluto come senior, si unisce la neo senior Gaia Mancini. I loro esercizi sono particolarmente competitivi, ma ciò significa che sono anche carichi di rischi e difficoltà. Ogni minima distrazione può mettere a rischio il risultato finale, ha commentato l'allenatrice Spela Dragas. Domani, dopo il GR delle 8:30, va in onda la rubrica dedicata all'agricoltura e alla vita rurale, Vita nei campi, a cura della nostra redazione di Udine. Le anticipazioni. Vita nei campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione, in onda la domenica alle 8:50 su Radio 1 Rai. Domani è in apertura una riflessione sulla convivenza possibile tra benessere umano, animale e ambientale. A seguire, per la lettura dei corsivi di Licio Damiani, quello dal titolo Il mirto divino, quindi un promemoria dedicato al perché i legumi fanno bene sia all'agricoltura che alla salute. E ancora l'uso dei tannini esogeni da fonti naturali nel processo di vinificazione. Per i grandi alberi protagonista è il noce secolare di San Antonio a Tarvisio. Nell'angolo della gastronomia qualche idea su come utilizzare in cucina gli avanzi delle uova di Pasqua. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo, il proverbio friulano della settimana. Appuntamento domani alle 8:50 su Radio 1 Rai con Vita nei campi. Udine, Rita Micoli, TGR Friuli Venezia Giulia. E domani sulla terza rete TV, la rubrica nazionale Est-Ovest, sempre a cura della nostra redazione. Nell'Ungheria di Orban sta nascendo una fabbrica cinese per la produzione di batterie per le auto elettriche. In Repubblica Ceca si infiamma il dibattito se abbandonare la corona per entrare nel sistema euro. In Lettonia, a Riga, opera un comando della NATO per la difesa cibernetica e informatica dell'Alleanza Atlantica. Un documentario racconta la tragedia dei bambini sloveni rapiti dai nazisti per il programma eugenetico Lebensborn. Il castello di Malbork, in Polonia, la più grande fortezza al mondo costruita in mattoni. Tutto questo in Stovest, domenica alle 11:05 su Rai 3. E questo è tutto per il giornale radio che è stato redatto e condotto da Dario Ronzoni e Nada Cioc, con la collaborazione tecnica di Roberto Cavallari e Paolo Cassano. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Da tutti noi l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.